La settimana successiva Mary Power portò a scuola i suoi biglietti da visita nuovi di zecca. Erano bellissimi, erano fatti di cartoncino color acqua e su ognuno c'era il disegno di un uccellino che cantava appollaiato su un ramo fiorito. Sotto, in lettere nere, era scritto Mary Power. Ne dette uno a Minnie, uno a Aida e uno a Laura, anche se loro non potevano ricambiare. Quello stesso giorno anche Nelly portò dei biglietti da visita. I suoi erano di color giallo chiaro, con un mazzetto di viole del pensiero e un cartiglio con scritto per ricordo. Il nome era stampato in modo da sembrare scritto a mano. Ne dette uno a Mary in cambio del suo. L'indomani Minnie disse che anche lei avrebbe avuto i suoi biglietti da visita. Suo padre le aveva dato i soldi e lei pensava di passare in tipografia all'uscita di scuola. Volevano accompagnarla per aiutarla a scegliere? Aida rispose che non poteva. Non devo perdere tempo, disse allegramente. Dato che sono stata adottata, devo correre subito a casa per aiutare nelle faccende. E poi non posso chiedere soldi per dei biglietti da visita. Papà Brown è un predicatore e queste sono cose della vanità. Ma mi farà piacere vedere i tuoi quando li avrai, Minnie. Che tesoro, Aida, non è vero? Disse Mary Power quando Aida le ebbe lasciate. Sapeva farsi amare da tutte. Laura avrebbe voluto essere come lei, ma non lo era. In segreto desiderava tanto avere anche lei dei biglietti da visita ed era quasi invidiosa di Mary Power e di Minnie. Nella tipografia, signor Hope, col suo grembiulone macchiato di inchiostro, allargò sul banco tutti gli esempi di biglietti da visita che aveva perché potessero scegliere. Erano uno più bello dell'altro. Laura notò con segreta soddisfazione che tra quelli c'era anche il modello di Nelly. Dunque era lì che li aveva comperati. Non venivano dall'est, come voleva far credere. Ce n'erano di tutte le sfumature. Alcuni avevano addirittura il bordo dorato. Potevi scegliere tra sei diversi mazzi di fiori o anche altri disegni. Per esempio, ce n'era uno con un nido in mezzo ai fiori, due uccellini appollaiati sul bordo e la scritta amore. Questo è da uomo, disse il signor Hope. Ci vuole un giovanotto un po' sfrontato per distribuire un biglietto da visita con su scritto amore. Certo, disse Minnie arrossendo. Trovarono così difficile scegliere che alla fine il signor Hope disse: Beh, fate pure con comodo, io intanto finisco di stampare il giornale. Tornò a inchiostrare i caratteri e a stenderci sopra i fogli di carta. Aveva già acceso la lampada quando Minnie finalmente si decise per l'azzurro pallido. Poi, sentendosi in colpa perché avevano fatto tardi, corsero tutte a casa. Quando Laura entrò ansante per la corsa, papà si stava già lavando le mani e mamma stava mettendo la cena in tavola. Dove sei stata, Laura? Chiese. Scusami, ma non intendevo fare tanto tardi, disse Laura. Raccontò dei biglietti da visita e naturalmente si guardò bene dal dire che li desiderava anche lei. Papà commentò che Jake era davvero intraprendente a portare in paese tutte quelle novità. Quanto costano? Laura rispose che il tipo più semplice costava 25 centesimi la dozzina. Era quasi ora di andare a dormire e Laura fissava il muro cercando di ricordare tutti gli avvenimenti della guerra del 1812, quando papà piegò il giornale, lo posò sul tavolo e disse: Laura, sì, pa, vorresti avere anche tu quei biglietti da visita, non è vero? Stavo pensando la stessa cosa, Charles, disse mamma. Beh, sì, mi piacerebbero, ammise Laura, ma non ne ho davvero bisogno. Con un sorriso che gli brillava negli occhi, papà tirò fuori di tasca alcune monete e le contò sul palmo. Li avrai anche tu, scricciolo. Ecco qua. Laura esitò. Ma sei sicuro? Possiamo permettercelo? Laura, esclamò mamma. Voleva dire, non starai mettendo in dubbio quello che fa tuo padre? E subito Laura disse: Oh, pa, grazie, grazie davvero. Sei una brava figliola, Laura, disse mamma. E siamo contenti se puoi avere le cose che fanno piacere alle ragazze della tua età. Prima di andare a scuola, domani mattina, se ti spicci, puoi correre alla tipografia e ordinare i biglietti. Tutta sola nel letto che una volta divideva con Mary, quella sera Laura si sentì un po' in colpa. Non si sentiva davvero buona, non come mamma, Mary e Aida Brown. In quel momento, per esempio, era contenta per i biglietti da visita, ma non solo perché erano belli, anche perché voleva stare alla pari di Nellie Olleson e perché voleva avere anche lei le cose che avevano Mary Power e Minnie. E il signor Hope promise che i biglietti sarebbero stati pronti per mercoledì a mezzogiorno. Quel giorno Laura non riuscì quasi a mandar giù il pranzo. Mamma disse che avrebbe lavato lei i piatti e Laura corse alla tipografia. I suoi biglietti erano pronti. Una delicata sfumatura rosa su cui spiccava un mazzo di roselline rosa carico e fiordalisi azzurri. Sotto, in un carattere sottile ed elegante, era scritto il suo nome, Laura Elizabeth Ingalls. Ma non c'era tempo di star lì ad ammirarli. Non doveva arrivare a scuola in ritardo. Stava camminando di buon passo sul marciapiede di Main Street quando un calesse le si fermò accanto. Laura alzò gli occhi sorpresa e vide i due Morgan. In piedi accanto al calesse c'era il signor Wilder. Si era levato il berretto e le tendeva la mano. Vuole un passaggio fino a scuola? Farà molto prima, disse. Le prese la mano, l'aiutò a salire sul calesse e le si sedette accanto. Laura era senza parole per la sorpresa e la timidezza, e anche per il piacere di essere portata da quei due meravigliosi cavalli. Avevano preso un trotto lento lento e stavano con le orecchie dritte, quasi ad aspettare l'ordine di accelerare. Mi chiamo Laura Ingalls, disse Laura. Era una cosa un po' sciocca da dire, lui certo sapeva chi era. Conosco suo padre. È un po' che la vedo qui in paese, rispose lui. Mia sorella parlava spesso di lei. Che bei cavalli! Come si chiamano? Chiese Laura. Lo sapeva già, ma doveva pur dire qualcosa. Questa è Lady e l'altro è Prince. Laura avrebbe voluto che accelerassero, che andassero al galoppo, ma sarebbe stato scortese chiederlo. Pensò di dire qualcosa sul tempo, ma anche quello sembrava sciocco. Non le veniva in mente niente, e in tutto quel tempo non erano neanche arrivati alla fine del primo isolato. Sono andata a ritirare i miei biglietti da visita, sentì dire la propria voce. Ah sì? Disse lui. Io ne ho di molto semplici, li ho portati dal Minnesota. Ne prese uno di tasca e glielo porse. Guidava i cavalli con una mano sola, tenendo le redini tra le dita chiuse nei guanti. Il biglietto era bianco e molto semplice. C'era scritto solo al manzo James Wilder a caratteri gotici. È un nome un po' esotico, disse lui. Laura cercò di pensare un commento gentile e disse: Non è molto comune. Me lo hanno rifilato senza chiedere il permesso. I miei hanno l'idea che ci debba sempre essere un Almanzo in famiglia, perché al tempo delle crociate c'è stato un Wilder che ci è andato e un arabo o qualcosa del genere gli ha salvato la vita. El Manzur si chiamava. Dopo un po' in Inghilterra il nome è diventato Almanzo, ma mi sa che tanto meglio di così non si riesce a fare. A me sembra un nome molto interessante, disse Laura sinceramente, e lo pensava davvero, ma non sapeva che cosa fare di quel biglietto. Sembrava scortese restituirglielo, ma magari lui non intendeva lasciarglielo. Lo tenne in modo che lui potesse riprenderlo se voleva. Nel frattempo avevano svoltato in Second Street. Laura si chiese spaventata se doveva dargli uno dei suoi, nel caso lui non avesse ripreso il proprio. Nelly aveva detto che si usava così. Spostò la mano che teneva il biglietto un pochino più in là perché lui lo vedesse, ma lui guidava i cavalli guardando avanti. Lo rivuole indietro? Chiese Laura. Può tenerlo se le fa piacere, rispose lui. Allora ne vuole uno dei miei? Sfilò un biglietto dal mazzo e glielo porse. Lui lo osservò ringraziando. È molto grazioso, disse, e se lo mise in tasca. Erano arrivati davanti alla scuola, tenendo in mano le redini, lui saltò giù dal calesse, si levò il berretto e l'aiutò a scendere. Lei non aveva bisogno di aiuto, toccò appena la mano guantata con la punta della muffola e saltò giù con leggerezza. Grazie per il passaggio. Non c'è di che, disse lui. Non aveva i capelli neri come le era parso in un primo momento. Erano castani, di una sfumatura molto scura, e aveva gli occhi di un azzurro così intenso da non sembrare chiari nel viso abbronzato. Uno sguardo fermo, affidabile, insieme allegro. Ehi, Wilder! Lo salutò Cap Garland. Lui alzò la mano in risposta e fece muovere i cavalli. Il signor Clewitt stava suonando la campanella e tutte entrarono in classe. Quando Laura sedette al suo posto, Aida ebbe appena il tempo di stringere il braccio, bisbigliando: Avresti dovuto vedere che faccia ha fatto quando ti ha visto scendere dal calesse. Mary Power e Minnie le rivolsero un sorriso raggiante, ma Nelly guardava ostentatamente da un'altra parte. Serata di intrattenimento. Un sabato pomeriggio Mary Power arrivò di corsa con le guance arrossate dall'eccitazione. L'associazione femminile di carità aveva organizzato una serata di intrattenimento a scopo di beneficenza venerdì in casa della signora Tingham, sopra il negozio di mobili. Ho il permesso di andarci se vieni anche tu, disse a Laura. La lascia venire, signora Ingalls, la prego. Laura non volle chiedere che cos'era una serata di intrattenimento a scopo di beneficenza. Per quanto amica di Mary Power si sentiva un po' in svantaggio nei suoi confronti. Mary Power era sempre ben vestita, con abiti che le stavano alla perfezione perché glieli faceva suo padre, che era sarto, e portava i capelli acconciati secondo la moda recente, con la frangetta sulla fronte. Mamma dette il permesso, non sapeva che in paese fosse stata messa su un'associazione femminile di carità. A dire il vero, mamma e papà erano rimasti molto delusi che il reverendo Holden di Plum Creek non fosse rimasto in paese ora che c'era la chiesa, ma quando era arrivato, il reverendo Holden aveva scoperto che vi si era già insediato il reverendo Brown. Così, invece di restare in paese, come sarebbe piaciuto anche a lui, era andato a fondare una missione più là, nei territori ancora non colonizzati dell'Ovest. Papà e mamma intendevano partecipare comunque alle attività della Chiesa e mamma era pronta a prestare la sua opera nell'associazione di carità, ma non era la stessa cosa che se fosse stato presente il reverendo Holden. Per tutta la settimana successiva, Laura e Mary Power non fecero che pensare alla serata di intrattenimento. L'ingresso costava 10 pence e Aida e Minnie dubitavano di poter partecipare. Nelly invece disse che a lei non interessava. La giornata di venerdì parve non passare mai, tanto loro due erano impazienti che venisse sera. Quel giorno, tornando da scuola, Laura non si cambiò d'abito, mise un grembiule sopra il vestito e a tavola si legò il tovagliolo al collo. Cenarono presto e non appena ebbe finito di lavare i piatti, cominciò a prepararsi per uscire. Mamma l'aiutò a spazzolare bene il vestito. Era un abito intero di tessuto di lana marrone col colletto alto e stretto e la gonna che scendeva diritta fino al bordo degli stivaletti. Al collo e ai polsi aveva un profilo rosso e sul davanti una fila di bottoncini di corno, ognuno con incisa sopra in rilievo una piccola torre. In piedi davanti allo specchio, appeso in soggiorno dove c'era la lampada accesa, Laura si spazzolò a lungo i capelli e si fece la treccia. Se la tirò su, poi la tirò giù e la sciolse di nuovo. Non riusciva a sistemarla in un modo che la soddisfacesse. «Perché non mi lasci portare la frangia, ma?» disse con voce supplichevole. «Mary Power ce l'ha e sta così bene!» «Tu stai bene così!» disse mamma. «Mary Power è una cara ragazza, ma questa nuova moda della frangia pazza, come la chiamano, non la capisco proprio!» «Sono bellissimi i tuoi capelli, Laura!» cercò di consolarla Carrie, di un castano così caldo, lunghi e folti e lucenti. Ma Laura si guardava allo specchio con aria abbacchiata. Le venne in mente che qualche capello corto c'era sempre intorno all'attaccatura. Quando li pettinavi indietro, come gli altri, non si vedevano, ma se li tiravi tutti avanti, formavano una specie di piccola frangia. Ti prego, ma non dico una frangia folta come quella di Mary Power. Lasciami tagliare qualche ciocca soltanto, giusto che si possa arricciare un pochino. D'accordo, disse mamma alla fine. Laura prese le forbici dal cestino da lavoro e si tagliò qualche ciocca sulla fronte in modo da formare una frangetta. Poi mise la matita da lavagna sulla stufa e quando si fu scaldata bene, tenendola dall'estremità più fredda, ci girò attorno una ciocca della frangia perché il calore la arricciasse. Ripeté l'operazione finché non ebbe tutta la frangetta arricciata. Poi si pettinò i capelli, rifece la treccia, se la fece girare intorno alla testa e la fissò con le forcine. «Girati, fatti vedere», disse mamma. Laura si girò. «Che te ne pare, ma?» «Sì, non è male», disse mamma. «Ma a mio parere stavi meglio prima». «Girati di qua che veda anch'io», disse papà. La osservò sorridendo compiaciuto per un momento. Beh, se devi portare la frangia pazza, direi che hai fatto proprio un bel lavoro. Dopodiché tornò al suo giornale. Ti sta benissimo, sei proprio carina, disse Carrie affettuosamente. Laura si mise il cappotto marrone e si aggiustò con cura il cappuccio di lana marrone foderato di azzurro. Aveva il bordo bicolore, tutto traforato e due lunghe bande laterali che si avvolgevano attorno al collo, a mo' di sciarpa, ed eccola pronta. Si dette un'ultima occhiata allo specchio. Aveva le guance colorite dall'eccitazione. La frangia arricciata era graziosa sotto la fodera azzurra del cappuccio che accentuava l'azzurro degli occhi. Mamma le dette i 10 pence dicendo divertiti e mi raccomando di comportarti come si deve. Devo accompagnarla, Caroline? Chiese papà. È ancora presto e in pratica c'è solo da attraversare la strada e poi va con Mary Power, rispose mamma. Laura uscì nel buio pieno di stelle. Il cuore le batteva forte, il fiato formava nuvolette bianche nell'aria ghiacciata. Davanti alla bottega di ferramenta e alla drogheria, le finestre illuminate mandavano lame di luce sul marciapiede. Anche sopra il negozio di mobili c'erano due finestre illuminate. Mary Power uscì dalla bottega del sarto. Laura la raggiunse e insieme salirono i gradini del negozio di mobili. Mary Power bussò e la signora Tinkham venne ad aprire. Era una donna piccoletta, con l'abito nero bordato di trine bianche ai polsi e al collo. Le salutò, prese le monete e disse: «Venite con me, potete lasciare il cappotto di là». Era tutta la settimana che Laura si chiedeva come fosse una serata di intrattenimento. Ora lo avrebbe scoperto. Per prima cosa vide una stanza tutta illuminata con diverse persone sedute e si sentì un po' a disagio perché dovette attraversarla tutta dietro la signora Tinkham per andare a posare il cappotto nella camera da letto. Poi tornarono di là e anche loro due, zitte zitte, andarono a sedersi l'una accanto all'altra su due sedie libere. Di qua e di là della finestra erano seduti il signore e la signora Johnson. Ai vetri c'erano tendine di sangallo e davanti alla finestra stava un tavolinetto lucido con una grande lampada di vetro con il paralume di porcellana bianca a rose rosse. Accanto alla lampada era posato un elegante album da fotografie con la copertina verde. Il pavimento era coperto per intero da un tappeto a fiori dai colori vivaci. Al centro della stanza c'era una stufa alta e stretta con gli sportelli di mica. Anche le sedie disposte lungo le pareti erano di legno lucido. C'era anche un divano, su cui erano seduti il signore e la signora Woodworth, con lo schienale e i braccioli di legno nero e il sedile di cavallino, anch'esso nero e lustro. Di simile a casa sua, pensava Laura guardandosi attorno, in quella stanza c'erano solo le pareti di tavole di legno, ma lì erano tappezzate di paesaggi e ritratti di persone che non conosceva. Alcune fotografie avevano larghe cornici dorate e del resto il signor Tinkham era il proprietario del negozio di mobili. C'erano anche la madre e la sorella maggiore di Cap Garland, Florence. C'erano la signora Birdsley e la signora Bradley, la moglie del droghiere. Se ne stavano lì sedute, tutte agghindate, senza dir nulla. Anche Laura e Mary tacevano. Non sapevano cosa dire. Bussarono alla porta e la signora Tinkham si precipitò ad aprire. Erano il reverendo Brown e la moglie. Il reverendo salutò tutti con voce stentorea, poi si mise a chiacchierare con la signora Tinkham della sua casa in Massachusetts. Molto diverso da qui, andava dicendo, ma tant'è, qui veniamo tutti da fuori. Laura lo guardava affascinata, non che le fosse simpatico, ma papà aveva detto che si vantava di essere cugino di John Brown, quello della battaglia di Osawatomie, che aveva ammazzato tanta gente in Kansas. E alla fine era riuscito a far scoppiare la guerra civile. In effetti il reverendo era sputato il ritratto di John Brown che c'era nel suo libro di storia. Aveva la faccia larga e ossuta, gli occhi infossati sotto ispide sopracciglia bianche lampeggiavano di una luce pugnace anche quando sorridevano. Il cappotto gli pendeva addosso sul corpo alto e magro, come fosse troppo largo, e le mani, che spuntavano dalle maniche, erano grandi e forti, tutte nodose. Dava l'aria di una persona disordinata. La lunga barba bianca era macchiata di giallo attorno alla bocca, come se si fosse sbrodolato di succo di tabacco. Parlava molto e da quando era entrato anche gli altri ogni tanto dicevano qualcosa. Laura e Mary Power continuavano a tacere, cercavano di stare ferme e composte, ma avevano una gran voglia di muoversi e fare qualcosa. Passò un mucchio di tempo prima che la signora Tinkham portasse dei piatti dalla cucina. Su ogni piatto c'era uno scodellino di crema e una fettina di torta. Quando ebbe finito la sua fetta, Laura mormorò: «Andiamocene!» E Mary Power rispose: «Sì, io me ne vado». Posarono i piatti vuoti su un tavolino lì accanto, si misero cappotto e cappuccio e salutarono la signora Tinkham. Come furono uscite, Laura tirò un gran sospiro di sollievo. «Uffa! Se è questa una serata di intrattenimento, ne faccio volentieri a meno». «Anch'io», disse Mary Power. «Sarebbe stato meglio restare a casa e tenersi 10 pence». Quando entrò in casa, papà e mamma alzarono gli occhi stupiti e Carrie chiese: «Ti sei divertita, Laura?» «No, per niente», disse Laura. «Avresti dovuto andarci tu, ma non io. Eravamo le uniche ragazze, non c'era nessuno con cui parlare». «Era la prima riunione», disse mamma per consolarla. «Quando tutti si conosceranno meglio sarà più interessante. Leggo sempre sull'Advance che tutti si divertono alle serate di quel genere». Il circolo letterario. Natale si avvicinava e non aveva ancora nevicato. Non c'era stata una sola bufera di neve. La mattina il terreno gelato era bianco di brina, che però spariva col sole. Quando Laura e Carrie uscivano per andare a scuola, c'era un po' di bianco solo sotto le verande e all'ombra delle case. Il vento ghiacciava il naso e le mani nei guanti, e con la sciarpa tirata sulla faccia non veniva neanche voglia di chiacchierare. Com'era desolato il fischio del vento in quelle giornate, col sole piccolo e smunto. E il cielo vuoto di uccelli. Nella prateria sterminata l'erba era grigia e morta, perfino l'edificio della scuola sembrava vecchio e stanco. Veniva da pensare che l'inverno non avesse inizio né fine, nulla sarebbe mai cambiato. Andavi a scuola, tornavi a casa, studiavi a scuola, studiavi a casa, ogni giorno era uguale all'altro e Laura aveva l'impressione che in tutta la sua vita non ci sarebbe stato altro che andare a scuola e studiare, poi andare a scuola e insegnare. Perfino Natale non sarebbe stato Natale senza Mary. Il libro di poesie doveva essere ancora nascosto nel cassetto di mamma. Ogni volta che ci passava davanti, Laura pensava alla poesia che non aveva finito di leggere. «Coraggio», disse, indicando la terra. «L'onda ci porta alla costa laggiù». Ma a furia di pensarlo, anche quel pensiero era diventato stantio. Non c'era più gusto neanche nell'attesa. Era di nuovo venerdì sera. Laura e Carrie lavarono i piatti come tutte le sere, poi, come tutte le sere, portarono i libri sul tavolo illuminato dalla lampada. Papà leggeva il giornale, mamma si dondolava piano lavorando a maglia, si sentiva il ticchettio veloce dei ferri come tutte le sere. Laura aprì il libro di storia come tutte le sere. All'improvviso non ne poté più, spinse indietro la sedia, chiuse il libro e lo sbatté con violenza sul tavolo. Papà e mamma sussultarono alzando gli occhi stupiti. «Non me ne importa niente!» urlò Laura. «Non voglio studiare, non voglio imparare, non voglio fare la maestra, mai e poi mai!» Mamma la guardò con tutta la severità di cui era capace. «Laura, so che non ti verrebbe mai in mente di imprecare, ma perdere le staffe e sbattere i libri in quel modo... Non è molto diverso, non voglio più vederti fare così». Laura non rispose. «Che ti succede, Laura?» chiese papà. «Perché non vuoi studiare e diventare maestra?» «Oh, non lo so», disse Laura esasperata. «Sono così stufa di tutto, voglio che succeda qualcosa, voglio andare all'ovest, o forse voglio solo giocare, so che sono troppo grande». Stava quasi per mettersi a singhiozzare, cosa che non le succedeva mai. «Laura!» esclamò mamma. «Oh, non è niente!» disse papà con dolcezza. «Hai studiato troppo ultimamente, è solo questo!» «Sì, metti via i libri per oggi!» disse mamma. «Nell'ultimo plico di Youth Companion ci sono ancora delle storie che non abbiamo letto. Potresti leggercene una? Che dici?» «Sì, ma...» rispose Laura abbacchiata. Non la rallegrava nemmeno l'idea di leggere una storia. Non sapeva quello che voleva. Ma sapeva che qualunque cosa fosse non poteva averla. Andò a prendere i fascicoli dello Youth Companion e riavvicinò la sedia al tavolo. «Scegli la storia che vuoi, Carrie», disse. Cercando di non spazientirsi di nuovo, cominciò Cominciò a leggere lentamente. Carrie e Grace ascoltavano con gli occhi spalancati. Il dondolo di mamma dondolava appena. I ferri tintinnavano. Papà era andato al negozio di ferramenta di Fuller di là dalla strada, dove gli uomini si ritrovavano a chiacchierare la sera. A un tratto la porta si spalancò e papà entrò dicendo: «Mettiti il cappotto, Caroline! Anche voi, ragazze! Andiamo alla scuola, c'è una riunione!» «Ma a quest'ora?» fece mamma stupefatta. «Ci vanno tutti!» disse papà. «Abbiamo deciso di fondare un circolo letterario!» Mamma mise via il lavoro a maglia. «Laura e Carrie, vestitevi! Io preparo Grace!» Poco dopo erano pronte. Quando mamma soffiò sul lume, papà accese una lanterna. «Meglio portarla con noi, avremo bisogno di luce là dentro». Altre lanterne venivano su lungo Main Street. Qualcuno era già avanti in Second Street. Si vedevano i lumi dondolare nel buio. Papà chiamò il signor Clewitt, che era già lì, con la chiave della scuola. I banchi avevano un aspetto strano nella luce baluginante delle lanterne. Qualcuno aveva portato una lampada. Il signor Clewitt ne accese una sulla cattedra e Gerald Fuller piantò un chiodo in una parete per appenderne un'altra, di quelle col riflettore di stagno. Per l'occasione aveva chiuso la bottega. Anche gli altri commercianti avevano chiuso per partecipare alla riunione. C'erano quasi tutti gli abitanti del paese. Tra lampade e lanterne la stanza era tutta illuminata. I posti a sedere erano tutti occupati e c'erano molti uomini in piedi. Il signor Clewitt chiese silenzio e disse che lo scopo della riunione era fondare un circolo letterario. La prima cosa all'ordine del giorno è fare un elenco dei soci. Poi si presenteranno le candidature per la carica di presidente pro tempore. Il presidente entrerà in carica e procederà alla nomina e alla votazione dei candidati alle varie cariche. Quel discorso colse tutti di sorpresa. All'improvviso il circolo non sembrava più una cosa divertente, anche se sarebbe stato interessante vedere chi si sarebbe candidato a presidente. Poi papà si alzò in piedi e disse: «Signor Clewitt, concittadini, siamo venuti qui con l'intenzione di svagarci e rallegrarci un po'. Forse non è necessario organizzare tutto per filo e per segno. Per quello che ho visto in vita mia, il problema, quando le cose sono troppo organizzate, è che la gente si interessa più all'organizzazione che a ciò a cui deve servire l'organizzazione. Mi pare che qui siamo tutti d'accordo su cosa vogliamo, ma se cominciamo a pensare all'organizzazione e a eleggere candidati, forse non saremo più tutti altrettanto d'accordo, ragion per cui la mia proposta è che per il momento facciamo quello che vogliamo fare, senza pensare a distribuire compiti e cariche. Abbiamo il nostro maestro, il signor Clewitt, qui, che può fungere benissimo da segretario. Può stabilire lui un programma da una riunione all'altra. Chi ha qualche buona idea, la dica. E chi è chiamato a fare una cosa e accetta, si impegnerà a darsi da fare quanto possibile, perché le serate vengano bene e tutti si divertano. Ben detto, Ingalls, gridò il signor Clancy. E quando papà tornò a sedersi, molti applaudirono. Il signor Clewitt disse: «Chi è d'accordo, dica sì». E un coro di sì sanzionò la proposta di papà. Dopodiché nessuno seppe più cosa fare. Il signor Clewitt disse: «Non abbiamo nessun programma per questa serata». E qualcuno commentò: «Ma non ce ne andremo mica già a casa». Il barbiere propose di cantare. Qualcun altro disse: «Non ci sono dei suoi allievi qui che possano recitare qualcosa? Che ne dice, signor Clewitt?» Poi una voce propose: «Perché non facciamo una gara di spelling?» Parecchi approvarono. «Ottima idea, sì, una gara di spelling!» Il signor Clewitt diede a papà e al signor Fuller l'incarico di formare le due squadre. I due andarono a sistemarsi ai due lati della stanza e, tra battute e risate del pubblico, cominciarono a chiamare a turno i partecipanti.